allora. Oh, buonasera, bentornata. Ma com'è carina stasera? Vedo che ha una forcina nei capelli, una trasparenza. Sicuramente. SMS che mi ha mandato Duio. Un un SMS. Senti se te pare a te, A causa del tuo rapporto non conforme con le zecche, ora non c'ho più credibilità presso i fratelli cammerati. Per questo motivo sono diventato vittima di battute turbogogliardiche che mi impediscono di andare al pub con lo sguardo spavaldo dell'aquila che mi ha sempre contraddistinto. Guardi, se mi ricordo bene il suo Tullio, lo si vede anche da dietro, non mi sembrava proprio molto spavaldo, eh? Aspetta, compagno, lasciami... Come compagno? Lasciami finire il concetto, aspetta, per questo motivo le nostre strade si dividono, dice papà di restituirci il busto del duce souvenir della nostra prima gita a Predappio. Vabbè, ho capito, vi siete in pratica... No, ti pare normale a te? Sì, no, vi siete lasciati. Pronto? Comunque, non è che lei ha perso molto, da quello che ho visto. Beh, comunque, lei come sta? Come l'ha presa? Come l'ho presa? Niente, cioè, a un certo punto, come dicono loro, desistere. Non era proprio così. Ma che ti pare, stava presa... Ma niente, allora mi sono fatta una bella passeggiata, proprio lunga, fino in centro, e fra l'altro ho assistito a uno spettacolo a sguardo. Praticamente ci stava questo artista che con una chiave stava decorando una macchina parcheggiata. Cioè, come, scusi? Cosa ha visto? Aspetta, compagno, lasciami finire il concetto precedente. Praticamente lui stava decorando questa che sarà stata una Mercedes, ripristinandole al suo status di bene comune. Bene comune! Vabbè, ma bene, no, comune, scusi. Bene comune. Quella Mercedes lì avrà avuto un padrone, un proprietario. Cosa certo. Vuol dire bene comune? Certo, un proprietario che però giustamente l'aveva sottratta alla comunità. E invece adesso, per fortuna, è stata restituita alla cittadinanza in quanto opera d'arte! Vabbè, no, scusi, ma io... Opera d'arte normale. Io stasera non la riconosco, sta dicendo delle cose incredibili, mi chiama compagno, ma... Aspetta, cosa è successo? Aspetta, fammi riallacciare al concetto precedente. Allora, niente, siccome questo artista era molto... sicuramente facinoroso, però anche molto... Molto? Cioè, molto buono. Allora io l'ho seguito fino a un grosso palazzo antico. Allora sono entrata dentro e ho detto: ammazza, che spettacolo! Ma chi è qua? Dice: questo è il Teatro Valle Occupato. Dico: ah, occupato! Ah, quindi ve l'ha regalato Alemanno come Casa Pau. E loro tutti a ride, se sono messi a ride. Tutti a ride. Infatti addirittura uno mi ha detto: ma vai da io, ma che te fai satira? Io ho detto: io? Guarda, non credo proprio, perché noi la satira non la capiamo. E tutti insieme: la satira non la capiamo! Insomma, certo, dagli è una bella metamorfosi, un bel salto mortale. Da Casa Pound lei è arrivata al Teatro Valle Occupato. Aspetta, no, mica così, prima ho dovuto superare le tre prove. Cioè? Le tre prove. Prima prova, turni d'accoglienza, un bucio de culo, il teatro aperto 24 ore H24. Seconda prova, turni di pulire. Devo dire, questi sono delle zecche veramente non conformi, perché... Cioè, loro non si lavano, però il teatro è scintillante, ci puoi mangiare per terra, è una cosa incredibile. Terza prova. Terza prova! Sicuramente la più ossica è stata dormire vicino a Bongo. E chi sarebbe Bongo, scusi? Bongo, tratto un consigli questo grosso, grosso occupante perennemente ubriaco, il cui polifonico russare è amplificato proprio dall'acustica Dolby Surround del teatro del Settecento. Praticamente è come una prova del 9. Se riesci a dormire vicino a Bongo vuol dire che credi nella causa, se non ci riesci non sei nessuno, te salutano. Vabbè, proprio. Ma se lei adesso crede nella causa, di cosa si occupa esattamente? Ma guarda, sicuramente ho proposto questo seminario su una maschera della commedia dell'arte. Ma che bello! Ma quale maschera? Arlecchino, Pulcinella, Capitano Fracassa? Capitanarlo. Capitanarlo? Capitanarlo. Ma come capitanarlo? Ma scusi, ma questa strana proposta come sarebbe passata? Cioè? Ma prova passata sì, a voglia, ma non sai le firme, proprio così. C'è stata la fila che voleva fare il seminario, adesso infatti iniziamo subito con una bella maratona notturna in cui recitiamo tutti e 42 gli episodi. Ma dai, sì. Ma è incredibile. A voglia, questi mi vedono l'ora di recitare, poracci. Sì, ma che strane decisioni. Ma come le prendete queste decisioni al Teatro Valle? Ma sicuramente da noi tutte le proposte, tutte le criticità vengono discusse in assemblea. Scusi, proposte? Criticità! Ah, criticità! Sì, vabbè. Quindi fate un'assemblea e poi votate. No, no, ma che sei matto? Votare da comunisti, da fascisti! Ma fatto ufficiale, da comunisti! Vabbè, comunque, hai capito? Capisco che lei stia facendo un po' di confusione, è in metamorfosi, sì. Ma insomma, come fate? Siete pur sempre secche, infine, che va a provincare, appena uno si sbaglia subito, sbagliato! Vabbè, comunque, no, ma non si preoccupi, sì. Votare è da fascisti, quindi da noi niente, si discute. E poi? Si discute finché non si raggiunge l'unanimità. Unanimità, sì. Unanimità. Per esempio, sì. Ieri ci si è bruciata la caffettiera e allora giustamente si è discusso a lungo sull'eventualità di ricomprarne un'altra. Per fortuna si è fatta un po' una sintesi e quindi l'assemblea è durata soltanto 7 ore. Ah, però. Ma tanto... 7. Non è poco, sì. E allora? No, dico tanto per me, io che sono abituata ai dibattiti su mutuo sociale, senza manco una cinghiata, è stata proprio una passeggiata di salute, a voglia. Che me forza. Mi piace un sacco. Scusi, io ho sentito solo l'ultima parte, ma ho sentito bene, è diventata un occupante del Valle, una specie di comunista, ho capito bene? No, no, no, non comunisti, bensì comunardi. Ah, ho capito. Piuttosto proprio a te cercavo, ma dico sbaglio, sbaglio, questo è un teatro occupato. No, perché a noi non ci ha avvertito nessuno, eh. Guarda che questa è violazione del copyright. Cioè? Come sarebbe a dire? Ma che stai a dire? Teatro occupato! È una scenografia. L'abbiamo inventato noi! Ah, ragazzi, ma come l'ha inventato te? Ma che dici? Ma che te l'ha messa in testa questa cosa? No! Ma che per caso te c'hai qualche criticità con me? C'hai delle criticità con me? Ma sta quasi avvenendo per me. Perché guarda che io ti posso aiutare a te. Ah, sì? Per esempio, se te vuoi fare uno spettacolo al Teatro Valle, io ti trovo una data, perché mi hanno detto che da noi vengono tutti gli artisti a ripulirsi. Cioè, per esempio, no? Per esempio, ti hai fatto una fiction de merda? Vieni al Teatro Valle e sei riabilitato. Ho capito. Per fortuna io fiction di merda non le ho mai fatte, quindi non ho bisogno mai. Di... No, no, no, no, le assicuro. Hai visto che... mai? No, mai dire mai, però no, non credo. Ad ogni modo, tu che fai a Teatro Valle? Possiamo darci del tuo oramai, direi. Ah, vai, ma sei sempre come arredo, mia sorella. Esatto, stiamo là. Democrazia, fatela parlare, che tu facevi arredo prima a Casa Pound, sì. Giusto se ricordo bene? Adesso, per esempio, stamattina ho fatto un corso di autoformazione su drammaturgia, infatti adesso sono drammaturga, ho già scritto un testo, ho scritto un monologo per Werther. E chi è sto Werther? No, ammazza Werther! Oh, io non lo conosco. Werther è l'attore più talentuoso che ci abbiamo gli occupanti noi. Io non ho mai visto che film ha fatto Werther, che ha fatto, non lo conosco, abbi pazienza, non l'ho mai sentito. Oh. Certo che voi dalla televisione siete proprio pieni di preconcetti. Oh, siete proprio pieni. Non ha fatto niente, non l'hai mai visto, no, non ha fatto un film. Però comunque è un attore e in quanto attore è portatore in giro di cultura, sì. E quindi lo Stato gli dovrebbe corrispondere uno stipendio. Uno stipendio! No, c'entrava niente. No. Secondo me non è manco giusto mo lo stipendio, non lo so se è giusto, non so se sono d'accordo con questo stipendio. Ad ogni modo, ma sapete che parla, monologo mio. Allora, sì. Niente, ho scritto sicuramente un monologo a proposito della mia precedente esperienza, tutto un po' un mio percorso culturale, non tanto una autobiografia, bensì un'analisi approfondita, psicologica e politica. Politica e politica. No, non ho capito esattamente che vuol dire. Allora, mi dica almeno come si intitola sto monologo. Il mio monologo, sapete? Come si intitola? Il mio monologo si intitola... E allora le faibe! Questo sì è un titolo che ci suona molto familiare. Va bene, allora la verremo presto a vedere al Teatro Valle. Venite al Teatro Valle, ma veramente non passo la paura. Comunque, lo so chiedere... Vedi che bello, le persone che cambiano. È vero, tutti da ridere. No, volevo chiedere un'ultima cosa, sì. C'ho una piccola criticità. Sì, dica, ormai... Che qualcuno c'ha una cartina lunga. Purtroppo no. Console, guardi, chiede la console. A Lady Gogo? Boh. Oh, li sentite adesso? Sì. No. Come sì, no? Sì. Voi no, ma io sì, a voglia. E allora, signore e signori, dopo questo breve intro con... Vicky di Teatro Valle. È arrivato il momento di mandarvi la nostra sigla, vero? Salute e felicità alla sua 18ª puntata. No, 14ª. Quattordicesima. E ne mancano solo altre due, signore. Non signori. È vero. È vero, sì. È vero, ne mancano altre 15. 15.000, un buon ascolto a tutte e tutte. Questa è... San Caribù. We'll be right back. Che numero è, scusami? 18. No, 14. Aie, non ne vogliamo proprio sapere. E allora, buonasera a tutte e tutti coloro che si sono connessi. Grazie. Innanzitutto, prego. Prego. Siamo molto gentile. Oh, hai visto che è successo? Dove? In giro nel mondo. Sei cascato nel cesso? Ha vinto Prodi. Ha vinto Prodi. No. Sì. Ma dove? Ovunque. Prodi ha vinto ovunque. Ha vinto il socialismo, signore e signori, da domani mattina... Socialismo. Socialismo, no? Subito. Subito. Reale, subito. Poi soprattutto. Oh, come, la, come la pappa reale. Come la pappa di Casapau, tipo... ad esempio. In che senso? E certo. Non ho capito, scusate. Ha vinto Hollande. Ma veramente? È l'amichetto di... certo. Vabbè, meglio Hollande che Sarkozy. No, no, colpa sua però, dice Sarkozy. In che senso colpa sua? Che se era per Hollande non dicevano, ma neanche se proprio è colpa proprio di Sarkozy. Perché ha detto non mi votate, non mi votate, non mi votate? No, perché ha detto... perché ieri ha deciso che lui era super cristiano e quindi bisognava rispolverare la religione nella Francia, che è uno dei paesi più laici, che prova a essere più laici di tutti. Entri in una chiesa, c'è scritto Liberté, Égalité, Fraternité. Diciamo che e quindi, è un e quindi po la inseguito. Gente ha detto piripi proprio. Forse è un po' inseguito, come dire, sì, la signora. Di estrema destra. Ci ha provato. Casa Pound. Ah, la cosa. Giapponese. No, che vuol dire il mito giapponese? Che ne so. Ah, così. Ah, va bene. Ha provato a inseguire la tipa, la come la si chiama? La Le Pen. La Le Pen. Shia Le Pen soprattutto. Shia Le Pen. E quindi in Francia, mentre in Francia vincono i socialisti, in Grecia chi vincono vince? Gli estremisti. E vai, un partito neonazista al governo e l'estrema, diciamo, è la destra conservatrice, chiaramente di mezzo ai suoi incassi, ma la sinistra, visto che ci ha preso delle belle sveglie, allora ha deciso bene che, no? Beh, a dimostrare, come dire, che seguire l'Europa paga. Sì, sì, sì, sì. Tanto, sì. Paga un sacchissimo. E allora... E allora, tutti coloro che ci stanno ascoltando, se volete potete entrare in chat. Yes. Con questo meccanismo un sacco malefico. Da no, punto. È facile, dai, io facile. Non faccio altro che incontrare persone durante la settimana che mi dicono è più semplice scalare l'Everest che entrare in chat. Oh, salute e felicità. Anche io, evidentemente abbiamo un grosso problema. Ma questo è quello che paga una web radio libera e indipendente, quindi ve la accollate. Tipo quale, scusami? Tipo quella di Transizione di Fase. Quindi dal sito di Transizione di Fase cliccate su chat. Sì. E seguite attentamente le istruzioni. Cioè attentamente... se tu vuoi entrare in una chat e ti dice vuoi bloccare i contenuti della chat, tu che gli dici, sì o no? No. E se ti dice sei sicuro di volere seguire questa chat, tu che gli dici? Sì. E segui. E quindi è come... lo voglio, com'era quella cosa in chiesa? No, lo voglio. No, aspetta, rinuncio. Rinuncio. A Satana. No, com'era? Crepelin. Early Grey, ottimo, vorrei. Certamente, allora musica. Quindi dai, Virgì, entra in chat. E salute e felicità. Buon ascolto a tutti e a tutti. Ve? Come ti senti? Io te sento, voglio. No, io non la sento e non mi sento. Come non ti senti? Neanche tu? Io, no, ora mi sento ma non la sento. Non la senti? Parla! No, noi non ti sentiamo, no, non ci sentimo. Mi sa che devi aggiustare qualcosa, ci. In ogni caso, 21 e 18, mentre lei ci prova e ci riprova, che cosa è successo in questo giorno in Francia? Lo vogliamo dire? Beh, in questo giorno in Francia che cosa è successo? Eccole, è arrivata. Avevo sbagliato Fader! Ole! Vabbè, tre metti sopra il clero. Vedete un po' che dovete fare, eh? Infatti sì, l'abbiamo pure ospitati. E mo si guardano la partita del... Dai, cioè... Che partita c'è? La Roma ha giocato, la Lazio ha giocato, c'è Milan-Inter stasera. C'è Milan-Inter e Juve sto cazzo. C'è pure il Derboni, Derbones. Sì, sì. Infatti andiamo... Tanto vincemo noi. Sì. Noi chi, scusa? Noi chi, scusami? Vabbè, lì. Vabbè, allora il Fader è rotto di nuovo, il suo microfono non c'è più, signore e signori. Un po' di musica, così ci riassestiamo un attimo. Non ti alziamo il microfono, eh? Eccola, vabbè, oh, va. Grazie. 21:19, saluta felicità. Una trasmissione tendenzialmente queer in onda tutte le domeniche dalle 21 alle 23:30. E quindi il socialista Hollande? Ancora. E certo. Ma ha vinto. Ma così è una ma notizia. Ma te pare, i socialisti al governo in Francia. Cioè, dai, abbiamo svoltato, riga. Abbiamo, cioè, una vittoria epocale. Capito? Quasi. Cioè, avete due facce da pesce lesso tutte e due. Ho capito, Ni, praticamente hanno vinto quelli che dicevano che l'Europa è una merda. E mo che famo? Torniamo alla lira. Ma magari. Noi. Mettiamo io un po' di lira. Io ho 5.000 lire attaccate in cucina. E io ne ho trovato 1.000 l'altro giorno in un cassetto. Forse me le date te in un cassetto. 1.000 lire. 1.000 lire, riga. Eravamo sporta al gabbiotto, caro Frodo. Eravamo al gabbiotto di psicologia. Buono. A volte gli spazi sociali vengono anche chiusi. Eccolo qua. A chi si merita. In ogni caso, i nostri ascoltatori sicuramente non ci staranno capendo. Parliamone. Che cosa è successo? Ha vinto. Anche se in realtà sono tutti quanti exit poll, no? Ma guarda che partita, eh. Oi, per fare una vita meno amara, li serve tua in tasca mia. Ebbene, ma come che è Baracca Sound? Money, money, money, money is the root of all evil. Money, money, money, money is the root of all evil. Money, money, money, money is the root of all evil. Money, money, money, the root of all evil. Da lavorare non me va, alla casa non me da capa, l'assicurazione RCA. L'assicurazione RCA, tutti li bolli e le tasse da pagare. Rosso fisso broda in riserva, e la macchina che comodità. Ogni due anni ne esce una nuova, e quella che c'hai la devi rotta ma dai. Ma la macchina non è una moda, compra oggi per in serenità. Con due giri del palazzo già c'ha, per valore dimezzato a metà. Paro paro l'essenzialità, e m'adegua sta precarietà. Non confido nella fatalità, gratta e vinci sta bella ceppa. Money, money, money, money, salute Bolivia. Ma non me vado a lavorare. Money, money, money, money, salute Bolivia. Ma non me vado a lavorare. Money, money, money, money, salute Bolivia. Ma non me vado a lavorare, no. Money, money, money, salute Bolivia. Io mo. Non c'ho la vita, non c'ho la vita, non c'ho. Non c'ho la vita perché ha passato la vita mala. Non c'ho la vita. Da lavorare non me va, ma la casa non me da capa, go. L'assicurazione RCA, tutti li bolli e le tasse da pagare. Ferma tutto tocca fa la spesa, con una certa dose d'abilità, diffidando dalle pubblicità, e sempre in bilico tra costa e qualità. Alla cassa regna perplessità, bip dopo bip mi sale l'ansietà. Mani in tasca cerco liquidità, e lotteria del giorno chiedo quanto sarà. Sono i tempi della globalità, dell'inutile produttività. Tutto quanto si deve adeguare, e tranne la misera mia busta paga. Money, money, money, money, salute Bolivia. Ma non me vado a lavorare. Money, money, money, money, salute Bolivia. Ma non me vado a lavorare. Money, money, money, money, salute Bolivia. Ma non me vado a lavorare. vibrazione RCA. Tutti bolli le nasse dalla gara. Eccoci, signore e signori. E quindi, come dice il nostro simpatico giornale popolare, no? Nazional Popolare. Allora, questi qua sono degli imbecilli. Praticamente sono solo exit poll. No, no. Giornali. No, France Press. Ah, France però, Press. Però, chiaramente, so. France Press dà la notizia che è Lanza, no? È Lanza in Francia, praticamente. No, Lanza, quello detersivo. Lanza. È l'apostrofo Lanza. Lanza è come ci piace. Oh. E invece, che cosa succede? Mentre chiaramente Repubblica.it ricama. Il giornale di partito ricama. Cioè, ha voglia se ricama. La prima notizia è il rosso. Sono solo exit poll. Cioè, sono exit poll perché chiaramente i francesi hanno smesso di votare 54 minuti fa. Ma vabbè, allora 52%, però insomma un 2%. Beh, si chiamano è un po' proiezioni, che... si chiamano proiezioni. E sappiamo bene che la proiezione è una difesa psicologica arcaica, lo possiamo dire che anche in non questo non caso è proprio non è arcaica, però insomma non va. Ah, non è una difesa? Oh merda. Vabbè, ne riparleremo. Vabbè, di psicologia. Dipende dai punti di vista. Da come la chiami? Da come la vuoi. La Francia volta pagina, recita altisonante il nuovo presidente, il socialista François Hollande. Che scusami, Sarkozy come ma fa? Ma che sarebbe nome? Sto ghiattone con l'occhiale trasparente? Sì, è proprio Prodi comunque. E ti ho detto che ha vinto Prodi. François? Lui come? Aspetta, come si chiama lui? Lui? Lui chi? Non mi ricordo. Svanban Sarkozy. François Sarkozy. Pure lui, François. No, come si chiama? De Francia, Sylvain Sarkozy. No, però io so come si chiama la moglie. Rocher Sarkozy. No, Carla Bruni. Mamma mia. François Copé. Già a metà pomeriggio il giornale belga Le Soir, perché chiaramente un pezzo di Belgi hanno votato per la Francia, per le elezioni. Aveva anticipato i primi exit poll, dando per vincente il candidato socialista con il 53%. Sbagliato. A seggi ancora aperti, Sarkozy ha annullato le celebrazioni post-elezione organizzate dall'UMP a Place de la Concorde in caso di vittoria. Sto cazzo. In serata il presidente uscente ha poi telefonato al vincitore per augurargli buona fortuna. E adesso la parola alla mia co-co-co-co-conduttrice che ci regge questo brano. Vi devo leggere addirittura un brano? No, vabbè, brevemente, insomma, va. Il discorso di Sarkozy, aspetta che mi preparo, eh. Vai. Aspetta, no, non si può un mica po' di fare così. Un po' di musica. Eccolo. ho premuto un po' troppo. Comunque, signore e signori, dopo aver appreso alle 19 la notizia della sconfitta, Sarkozy ha raggiunto l'Eliseo e si è chiuso nel suo studio. Io penso che sarò portata, vabbè, con il primo ministro François Fillon. Che se devono chiamare tutti François, comunque. Eh sì, pare che va di moda chiamarsi François, perché forse suona bene. Eh sì. Il presidente dell'UMP, François Copé, un'altra volta, e il ministro degli esteri, questo si chiama Alain Juppé, detto François per gli amici, sì. Gli amici François, per preparare il discorso ai suoi fedelissimi. La tua coscienza è falsa, quante promesse hai fatto. Torno a essere francese tra i francesi, non sarò mai come quelli che ci hanno combattuto. François Hollande è il presidente della Francia e deve essere rispettato. Non eri solo. Non vi dividete, restate uniti. È mia tutta la responsabilità di questa sconfitta. Sarkozy ha aggiunto. La fine. Vento caldo dell'estate che è ottobre. Lo sta portando via François. Sarkozy, no. Come si cazzo si chiama Sarkozy? Dai, e cercalo. Ho capito. Comunque, nel suo discorso d'addio, Sarkozy ha voluto dare tutti i francesi per l'onere di essere stato presidente per 5 anni. Ha aggiunto che non c'è la pagina tagliata. Scusami, vai un po' più a sinistra. A sinistra? Sì. Più a sinistra di François. Grazie. Hollande. E ha aggiunto che non dimenticherà mai questo onore immenso. Oh, sto gatto. Povero Sarkozy che se ne va. E allora 21 e 28, io direi basta questa storia di Hollande. Cioè, Vabbè, ha vinto il socialismo. Ah, Psico Blu, ha vinto il socialismo. C'hai capito? Da domani si volta pagina. Capito? No? Forse. Come forse? Non lo so, a me. Ci sta portando via. Scusate, direttamente dalla Francia si chiama Nicolas. Nicolas Delimorté. La fine. La fine. La fine. Che figura è merda. Grazie, non dal Belgio, dalla Francia? Dalla Francia, dalla Francia. E quindi vi ricordiamo, signore e signori, che se volete comunicare con noi potete entrare in chat da transizionedifase.org cliccando su chat e seguendo le informazioni, le istruzioni. Se vi chiedete bloccati, ditegli di no. Se vi chiedete che siete sicuri di entrare in chat, ditegli di sì. E se avete sbagliato dovete chiudere il vostro browser, internet e riavviarlo. Quindi spegnere la radio, spegnere tutti e riavviarlo. Esatto. Dai, che già potete fa. Vi aspettiamo in chat qui su Salute e Felicità. La serata è appena iniziata, sono le 21:29. Andremo avanti ancora per le prossime due ore. Pensate come gli stiamo. Mi saluto prima. Eccola. Ma e questa sera ce ne abbiamo tante da dirvele, soprattutto in tema musicale, culturale, sociale, artistico, popolare. E tante storie da raccontarvi, quindi Belen Sebastian Storytelling. Buon ascolto a tutte e a tutti. La Grecia, signore e signori. Stessa storia. Ma perché sarà stesso fatto posto? Le elezioni in noi, no? Noi stiamo facendo quelle di alcuni comuni. Come no? Perché loro stanno a fare presidenziali? Stanno a fare presidenziali, perché cioè, non ne fanno i presidenziali? Cioè, noi non... Perché il nostro sistema elettorale è differente. Non so le elezioni europee, Psico Blues, dai un po'. Ah. Ricolleghete, a ricollegati. Ah, però in realtà non si votava oggi in alcuni 9 milioni di italiani al voto oggi. Mille comuni sì, oggi però, alle urne. Però votano anche domani, però quindi non si può di niente, non sappiamo niente. Non sappiamo, non abbiamo, se siamo in trasmissioni non possiamo vedere le famose trasmissioni sulle proiezioni. Che culo. E quindi fate anche voi le trasmissioni. Che cosa è successo in Grecia? Sconfitti anche lì i partiti dell'austerity. La sinistra radicale supera i socialisti. Però, che cosa succede, cara mia? Che vince l'estrema destra. Beh, diciamo che il dato interessante era che oggi pomeriggio, appunto, i cosiddetti... Cioè, tutto quello che più o meno era al centro era quello con meno voti e l'estrema destra e l'estrema sinistra con una maggioranza abbastanza stupefacente, come per dire... Siamo in un momento appunto di crisi così, non c'è come dire il PD che salva o qualcosa del genere, ma ricorriamo a una delle due estremità, purtroppo, però... In Francia è successo che l'estrema destra neonazista di Alba Dorata, che non vi diciamo come si dice in greco perché non lo sapremo... In Grecia è successo che non in Francia, come appena hai detto. No, minchia, in Francia la Le Pen... Ah, ho detto in Francia? Ok, no, vabbè, in Grecia ho detto comunque, in Francia la Le Pen ha preso il 20%. Cioè la Le Pen è davvero peggio della peggio Lega proprio, cioè tipo bianco, Lega. Bianco, no, bianco, bianco. La Lega bianco. È MSI. Di sinistra. Ah, a proposito, MSI, ho scoperto che MSI in realtà vuol dire, che vuol dire MSI? Movimento Sociale Italiano. Movimento che? Mussolini sei immortale! Cosa inventato? No. È stato come Movimento Sociale Italiano. Sì, però. Ma vuol dire Mussolini sei immortale, che è lo stemma dell'MSI. È una bara vista di profilo con una fiamma sopra, perché Mussolini vivrà sempre. No, dice che è sta cosa. Comunque, le proteste contro le misure di austerity varate dall'esecutivo tecnico con l'appoggio di Nea Democrazia e PASOK premia anche l'estrema destra neonazista di Alba Dorata, che supera la soglia di sbarramento del 3% e entra in Parlamento con il 6-8% dei consensi. I comunisti del KKKKE ottengono tra il 7,5 e il 9,5 contro il 7,5 del 2009. Entrano nell'assemblea legislativa anche i greci indipendenti rispetto a... I sardi indipendenti. Ah, ok. Con il 10-12% e Sinistra Democratica con il 4,5-6,5, signore e signori. Serviamo il numero 21. Allora, oggi accade che io faccio una festa come tutte le mie sante domeniche pasquali. E noi le abbassiamo il microfono. E giocavamo con questi bambini un po' scalmanati, con questi piccoli tagliette per 8 anni, molto impettiti. Scusami, che sono i tagliette? Tagliette. Riabbassiamo il microfono. No, allora, io ho poca energia questa sera e ciò che dirò non potrà essere... Evitate usarla per dire cose incomprensibili. Allora mi metto sul divano e dormo, no? Oh, mamma mia. Giocavamo con questi carissimi bellini, tanto carini, tanto bambini, finché un bambino non ha deciso di sfondare una sedia con il piede, cioè c'è entrato tutto dentro, tutto questo di fronte al papà che non gli ha detto nulla. Ecco. E io e l'altro animatore ci siamo guardati un po' del tipo, mi madre mi avrebbe dato una caracca in faccia. Ecco. Il padre se ne va... Che simpatica di madre. A madre del collega. E il papà se ne va tutto soddisfatto che il bimbo ha fatto questo gesto che è stato acclamato geniale da tutti. Ecco. E noi abbiamo detto, caro bimbo, non si fa... Che a casa tua lo faresti, eh? Come ti chiami, bel bimbo? E lui, a braccio destro alzato, mano a paletta, urla: Emanuele Filiberto! No! Età 9 anni. 9 anni. Avete detto le foibe? Il mio collega dall'altra parte della sala ha risposto: fai pippa, eh? Tutto questo. No, noi famo pippa perché 2000-2500 invitati. Era un bambino non conforme, insomma. Sicuramente Amy Winehouse, you know I'm no good. Pensi? A casa mia si staccano le sedie, pensi. Amy Winehouse. I was trouble. In the E allietiamoci, signore e signori, che la situazione si fa dura. Sometimes it's better when it's publicly. I'm not ashamed, I don't care who sees us hugging and kissing, a love exhibition. Oh, we'll rendezvous out on the fire escape. I'd like to set off an alarm today. The love emergency, don't make me wait. Just follow, I'll leave. Go to the park. I wanna kiss you underneath the stars. Maybe we'll go too far. We just don't care. We just don't care. We just don't. Let's make love. Let's go somewhere they might discover. Everybody's leaving, we'll have some fun. Oh, maybe it's wrong, but you're turning me on. Oh, we'll take a visit to your mama's house. Creep to the bedroom while your mama's out. Maybe she'll hear it when we scream and shout. But we'll keep it rocking until she comes knocking. Bentornati e bentornate su Salute e Felicità. Innanzitutto un bacio a Dinda e a Nicola che non riescono a connettersi in chat. Ma come? Ma è facile. È facilissimo. È facile. Nicola! Nicola, ce la puoi fare anche tu? Allora, Nicola è un ragazzo un sacco carino e simpatico che si è aggregato a questo gruppo di folli di Io sono Io Scorro, del quale parleremo un po' più là. Yes. Ma la cosa che volevamo dire di Nicola è che è diventato il nostro attacchinatore professionista. Pensa te come gli stiamo. No. Se per la città vedrete dei fantastici manifesti di Weird. Altezza luna. Due metri e mezzo. Altezza luna in che senso? In alto. Ah, ok, alto, ok, alto. Scusate. Per me sono altezza luna. Scusate, sì, sì, sì. È stato sì. Nicola che con le sue gambette esili è riuscito a svolazzare qui lì con manifesti e scope. E che si fa soprattutto 50 centimetri di salto da fermo proprio. È assurdo, è assurdo. Fantastico Nicola, fantastico. Grande, grande Nicola. Ti vogliamo molto bene. Nicola, invece salutiamo le altre persone che ce l'hanno fatta entrare in chat come con noi. C'è cioè Mimì e Giulia, ok, e invece anche Memoro, signore e signori. Ciao Memoro. Ciao Memoro. Che lei è direttamente dal viene dal compra la vocale. Ora ora gira la ruota. Yeah yeah. Yeah. Viene direttamente dal discorso di Hollande. Pipo? Tipo che sentiva il discorso di Hollande. Ah, e che ha detto? Che ha detto? Chiamaci su Skype perché siamo anche su Skype. Ci trovate come salute sì, e felicità. Sì, infatti sta su Skype anche. Sì, dico chiamaci. A scema. E che gli famo di? Che gli famo di? È il discorso di Hollande. È il discorso di Hollande in francese. Certo. E allora anche la nostra cara Irene Clash Mama riesce a entrare in chat. Ma che davvero? E dai! E allora dall'Irene anche a lei chiediamo di entrare su Skype, così casomai facciamo intervenire una delle DJ che suonerà questa Weird Fest che ci sarà l'11 maggio. E sarà Strike. Ma lo diciamo tutto adesso, no? No, no anche no, dopo. Questa è l'anticipazione. Io ho la notizia triste, non me la fate dire la Vi lascio una triste. Canzone triste, triste, triste, triste. Ma com'è? Che si è preso stasera il conduttore? T'ho detto che sono un po' dei forelloni. Dai un po', caffè. Guarda che con Stalena ne facciamo altre 20 di puntate, gioia. Ah. Direttamente dalla vacanza insieme dell'anno scorso. C'è la Verves. Sì. Va bene. Scusate. È il momento per la notizia triste, ma prima della notizia triste. La nostra chat ispiri più o meno la stessa frase a chiunque. Cioè, è più facile che un cammello passi per la cruna di un ago che una persona entri nella chat di transizione di fase. È la stessa cosa che ci hanno detto la settimana scorsa. Sì, sì, infatti per questo. Allora, perché siete dei banaloni siete. No, oh, stai calmo che stai come dire stai a parlare con Irene Betty Davis. Ti ma che se fa male parlare? No. Senti. Era giusto per così alleggerì. Visto che ci rosicate sempre con sta chattes. Va bene, e ora tocco a me come sempre. Eccola la notizia triste della serata, ovviamente. Triste come me. Come me. Inizia in questo modo. Vai. A Napoli un pensionato si è sparato per una cartella di Equitalia. Mortacci. A Enna un precario si è impiccato. Uh-huh. Stamattina due tentati suicidi. Tutto questo perché cantavano i Baracca Sound prima, non ci sono soldi. Cioè, pare che ormai sia diventata, come dire, ci sono circa due morti al giorno. Ma ve lo ricordate quello che diceva che la crisi era finita, no? Sì, la crisi era finita. 'Cause you know I could possess your body too, don't you? Beh? E beh, lo diceva molto bene Marco Revelli sul Manifesto il 20 aprile nel suo il editoriale. Il giornale Manifesto. Ah, il Manifesto, il giornale quotidiano comunista. Pubblicizziamo questa roba. Ho capito, non è che la pubblicizziamo, quindi citiamo la fonte. Ecco. Non è che gli faccio pubblicità, ecco. Cito la fonte. Non lo comprate. No, io non sono d'accordo. Va bene, se ve lo volete comprare, compratevelo. Cioè, nel senso che è vero che è diventato un giorno. Però non attaccamo la pippa sul Manifesto. Digli un po' Marco Revelli. Lo diceva Revelli dicendo che, come dire, che queste morti possono essere considerate come stragi di Stato, sostanzialmente. Beh. Perché sono figlie e sono il prodotto delle politiche economiche e delle normative che applicano il no, in questo caso il governo tecnico ma anche politico Monti, e possiamo anche considerarle come stragi di mercato. La cosa agghiacciante è quello che ha risposto Monti a questa drammatica realtà. Lui dice che le vite che si chiudono nella disperazione ed è, sì, è vero, un prezzo altissimo, però dobbiamo dire che ricordiamoci che il bilancio della Grecia supera già i 1725 casi, per cui in Italia stiamo tranquilli, non siamo ancora arrivati a 1700 persone che si sono ammazzate dalla crisi. Quindi, un prezzo alto, però insomma, io, no? Non ci abbiamo mica la destra al governo e tanti suicidi come loro, dai, no. C'è anche quelli che stanno messi un po' così, insomma, no? È vero anche che se guardiamo alla Grecia, rischiamo che questa roba diventi una macelleria sociale, nel senso che siamo di fronte a, tra l'altro, a persone che si uccidono, sono piccoli imprenditori, che sono appunto operai, sono persone disoccupate che continuano ad avere a casa cartelle di Equitalia e che quindi si ritrovano appunto senza lavoro e senza soldi in nome di una politica che appunto guarda all'Europa, probabilmente alla Francia di Hollande, che va bene che è socialista, però è che dice delle cose agghiaccianti sull'immigrazione. E ce n'è anche un'altra, no? Se mi votate, com'era quella lì? Aspetta. Se mi votate, cari froci e care lellone, vi darò i diritti. Però farò anche la TAV. Scusi, prego, può ripetere? Non abbiamo sentito. No, nemmeno io sentivo. I microfoni sono bassi. Sarà anche la TAV. Tu l'hai sentito, Ale? Mi scusi, ma non ho capito. Perché dobbiamo scambiare i nostri diritti di lesbiche per queste opere inutili, insomma? Allora, o volete i diritti, oppure facciamo come la Grecia, no? Sì. No, ma anche i care froce e carellelle, volete i diritti, e se volete i diritti, come dire, dovete essere dei cittadini. Sì. Come diceva la facciamo alla Vicky. Alla Vicky. Vai. Francesi. Certo. Francesi. Niente droga. Ecco, niente armi, niente prostituzione e essere francesi. Francesi. Mamma mia, signore e signori, andiamo sempre meglio. Qualcuno direbbe vive socialisti, anche se in Italia abbiamo una rappresentanza socialista un po' così, quindi io non direi mai vive socialisti. Si chiamano tutti crax, i socialisti. Oh, figli. In Italia. E allora, 21:55. Se no, che felicità va alla scadenza della prima ora. Oh yeah. brevissimo avremo la cazzata della settimana. Yes, e quindi vi diamo un aggiornamento e ringraziamo Moonpointer che ci sta ascoltando. Se avete delle difficoltà oggi entrare in chat, non sono solo i soliti problemi, ma in più oggi il nostro caro Mufold è in NetSpeed, quindi voi non capirete. In ogni caso è difficile collegarvi, ci si. Ma una cosa sola volevo aggiungere, così per chiudere la mia notizia triste. Mamma mia, è che un po' anticipa, come dire, siamo quasi arrivati alla cazzata. E me la prendo io questa cazzata. Però ti posso mettere il... Che mi vuoi mettere? Sì. Vai, vai. Ecco, la mi piace, è la colonna sonora giusta. Vai. Sarkozy. No, cioè, è un momento serio per no, quello. È un momento, questo è un momento top. Certo. L'ha detta grossa sto giro. Articolo 18. No, no, no. Io abbasso il microfono, Io pure. Ma da ebbene la Lady Di Ferro italiana, la fornace italiana, quella che brucia, come dire, i diritti. L'altro giorno diceva: metti magno e metti ricaco a colazione. No. Ah, che diceva? No, cioè lo stato sociale, sì. Forse sì. Un po' l'abbiamo il welfare, forse un po' un l'abbiamo toccato. Certo, cioè, un po' qualcosa gliel'abbiamo tolto. No, ma guardi, siete tranquilli, in realtà signora cara, direi che no, signora cara, non mi pare. Sorvolando sul fatto che avevano tolto la possibilità di accedere gratis alla sanità per quanto riguarda i disoccupati, poi reinseriti così con una manovrina. Signora cara, quanto ci costa sta manovrina? Guardi, se ne ammazzano due al giorno non mi sembra poi manco troppo. Vabbè, insomma, signora, stia calma, Però questa è la cosa più grossa, poi lo sapete che io ci tengo a questa cosa, no? Quindi, però l'articolo 18 non l'abbiamo toccato. E quindi? Io personalmente gli risponderei. Tu Elsa Fornero? No, io conduttrice sì? di Salute e Felicità, gli risponderei con un verso di Emilia Paranoica. Chiedi al 77 se non sai come si fa. Però non si possono citare e poi come sottofondo avere Killmong Soflet. Ho capito, qua c'è. Dai, due suicidi al giorno, capito? No, non l'abbiamo. Forse l'abbiamo toccato lo stesso. Forse. Toccatino. È solo colpa di Equitalia. Chiaramente. Allora va bene, ci chiedevano un brano un po' più pompatello. E sul brano pompatello andiamo verso le 22, quindi ci sentiamo il pompatello e poi andiamo sulla nostra The Best, sulla nostra cazzata della settimana. Scusatemi, così... c'è una richiesta, Ma posso fare una richiesta? Certo, faccia la richiesta. Voglio la 12, eccola qua. La vuole? La conduttrice non è convinta, non ci vede. La conduttrice è questa, buon ascolto a tutte e a tutti. Rimanete connessi su Salute e Felicità. Poco iniziamo a parlare di Weird Fest. Irene, se ci sei, batti un colpo. Maybe you do find it. you can be my boy toy. In the nick of time, I can say a second rhyme, cause it's time for change like a nickel or a noise. I'm Roman, I'm a barbarian, I'm Conan. You were sleeping on me, you were dozing. Now move! I'm Conan. Different kind of girl. Every record sounds the same. You gotta step into my world. Eccoli, signore e signori, ho abbassato al volo, ma sono le 22. È il momento. È arrivata lei? C'è, mitica. Secondo... Inconfondibile, imperscrutabile. Lei, l'unica. La meglio. Non esageriamo. Vabbè, the best, la meglio, la cazzata della settimana, signore e signori. Eccola. Sigla. Come ogni settimana, la cazzata più grande della settimana, a cura di Salute e Felicità. E fra poco, i Clash Mama Families. Ciao David! The loss with a lot and a double. There's a pain. Venerdì 21. C'era 20 per un niente. Festa te. Ore 20 proprio strike. Era il numero 21. Ce l'abbiamo solo noi, Clash Mama. In your heart, the star of every night and every day. Weird, weird, weird, weird. In your eyes, I get lost, I get washed away. Weird, weird, weird, weird. We're the best. Alle 20 tutti a strike. Se non vieni proprio, se non vieni morirai. Ho esagerato un po', eh. Non ti parleremo e poi ti ammazziamo di botte, cinghiamo a tazza. Sicuramente alle ore 20 a strike, venerdì 11 Weird Fest, da paura, Clash Mama and the Family. forse sta ammazza un po' tutti. Il sacro momento è arrivato. Ce l'ho, io non ero d'accordo. Ma come non eri d'accordo? Il microfono. No, ma noi ti sentiamo, Cica, ma cracchia, lo senti che scracchi, eh? No, sono le tue cuffie, Ciche. Allora, innanzitutto, no, vedi che scracchia. Detto una lesbica, lo tieni male, comunque io mi alzo e me ne vado. Okay. In ogni caso ritorniamo, scusateci per il nostro Weird Fest, ma evidentemente noi siamo di parte. Ma ne parleremo dopo e allora vai con la musichetta utile per... Innanzitutto 22:07 e salutiamo tutte e tutti coloro che sono riusciti ad entrare in chat. Voi siete sicuri che si sente? Sì che te si sente, Cica. Mi alzi un po' lui, per favore. Lui il computer? Sì, eccolo. Abbassi il tuo, grazie. Come abbassi il tuo? Ma stai calma, bella? Sì. Sì. Te senti? Te senti? Ma come non siete abbastanza? Ho capito, ma che ma vuoi? Se sei la, eccolo! Pip, pip, quindi siamo su Skype con qualcuno, ce la possiamo fare. Tu, tu, tu, tu, tu, tu. Ah, eccola! Sta a mette lei a musica. Vabbè, senti Frodo come scoatta. Un salutone anche a. Te mettete la musica. Un salutone anche a Null Pointer, alla prof, a tutta la gente che ci ha raggiunto nel frattempo. Bacetta Radio Noise, ti stiamo aspettando. E allora, la cazzata della settimana, anche se io non la volevo molto come cazzata perché è una cosa seria. Ma la tua voce chiaramente non ha valore in questa trasmissione, andiamo avanti, cava. Alfredo? Che gli hai fatto? Vabbè. Raga, sono De Forello, dagli un po'. Io ho vinto il microfono che non funziona in questo. Che culo! Allora, il caso è il seguente. Gli scout cattolici e l'omosessualità. Sì? I capi gay sarebbero un problema. Una giornata storica. Tutto è perfetto. Doveva essere una riflessione d'apertura, ma ecco le linee guida proposte dalla Gesci. Vietato il coming out. E un invito. In caso di situazioni del genere, vanno chiamati i genitori e consultato uno psicologo. Prof, aiuto. Lo capisce bene, la tua timidezza non condanna, no, ma ti eleva da chi odia, chi ferisce, inganna, perché tu. E allora, capo scout omosessuali che non dovrebbero dichiarare il loro orientamento sessuale per evitare di turbare e condizionare i giovani. I giovani omosessuali che a loro volta dovrebbero essere mandati da uno psicologo, visto che si ritiene possibile educare i ragazzi e le ragazze all'eterosessualità. Ma lo sanno che non è una malattia infettiva l'omosessualità? Ma magari fosse una malattia infettiva. Ah. Così com'è. In un momento non importa cosa dicono. Doveva essere il seminario dell'apertura degli scout cattolici della Gesci al tema. Ah, no, no, no, scusa, scout a Gesci. Com'era? Scout cattolici. Ah, beh, allora dillo, no? Vabbè, io ci sono stata alla Gesci, Dici che esistono solo persone buone. Io sono stata ben 5 anni a scout e devo dire che è stata un'ottima esperienza sociale che mi ha permesso di fare coming out, anzi, se la dovessi proprio dire tutta. Comunque sia. Lo vedi che c'hanno ragione? No, ma magari. Dal cioè, loro punto di vista. Ma infatti questa cosa è pericolosissima. Cioè. Vabbè, andiamo avanti con la notizia. Tu mi ami. Trama sintetica di una giornata storica. L'approccio seguito dagli esperti del resto era chiaro sin dalla presentazione del convegno, nella quale l'omosessualità viene definita come un problema. Oltre a due psicoterapeuti, lo scout Dario Contardo Seghi, segnate Dario Contardo Seghi e Manuela Tomisic. Le lezioni sono state tenute anche da padre Francesco Compagnoni, assistente ecclesiastico presso il MASCI, che sarebbe il Movimento Adulti Scout Cattolici Italiani. Sì? Il religioso, che proviene da 45 anni di attività negli scout, ha messo in guardia i presenti dalle ostilità nei confronti della Chiesa Cattolica, anche alla luce degli scandali che hanno coinvolto preti pedofili. Certo, no? Il binomio è semplice. Ma andiamo peggio. Come comportarsi con un ragazzo omosessuale? Secondo me, dice il prete, che insegna anche in una pontificia università della capitale. No, scusa, dove? In una pontificia università della capitale. Allora dillo, no? Che dice? Bisognerebbe parlare con i genitori e invitare un esperto con cui consigliarsi. Ah, cretino! In linea generale, uno psicologo dell'età evolutiva, o ancora meglio, un pedagogista. Eccolo! Pedagogista. Cioè, un pedagogista. Perché, ma di che stiamo a parlare? Perché il ruolo dello psicologo funziona sempre da paura. Quindi? Questo brano lo conoscete. Vabbè, eh? A me, niente, io mi sto incazzata come al solito, come le bisce, non capisco. Lo psicologo, sto bastardo, Contardo Seghi, dice che l'omosessualità non è sempre una condizione permanente. Pur evidenziando che non si tratta di una malattia, Seghi afferma che alcune persone diventano, siete pronti? Omosessuali in seguito a un trauma, o seguendo alcune loro errate convinzioni. E che... Molto spesso, dice, alcune donne lesbiche avevano incontrato maschi brutali. Scusa, ma mi sentite? Certo che ti sentiamo, ah, cica. Ok, quindi poi Seghi mi deve spiegare un'altra cosa, gliela chiederò poi io personalmente a Seghi, tipo la violenza domestica. Ah prof, se entri e esci dalla chat così però ci fai uscire pazzi, eh? No, ma sentite questa che è ancora meglio. Un discorso analogo è quello relativo ai gay, che in realtà sarebbero degli etero latenti. Cioè Mario Mielio sai che gli direbbe? Sei una criptochecca. Ah, criptochecca. E questo è solo per Clash, ovviamente. Certa. Per anticipare la sua venuta. Certa. Ciao Nicolas. Ma così? No. Non gli dico così, no. Comunque sia, anche perché non vorrei, come dire, dare troppo spazio a questa cosa, vorrei finire con questo. Per lo psicoterapeuta, sempre il Swan Downs, educare all'eterosessualità è possibile e inoltre si possono frenare le pulsioni omosessuali. Dobbiamo porre molta attenzione nell'educare i nostri ragazzi a non identificarsi con ciò che sentono, perché quel che sentono non definisce pienamente ciò che sono. In che senso? Posso provare una rabbia terribile che devo imparare a gestire e riconoscere, non identificando me stesso con la rabbia. Devo diventare consapevole del fatto che posso gestire ciò che sento. Se mi sento lesbica, devo gestire quello che sento, devo fare l'eterosessuale. Quindi non c'è dubbio che anche la dimensione sessuale vada poi gestita ed educata. Secondo un modello eteronormativo, italiano, bianco... Niente armi, niente prostituzione e essere italiani. E niente omosessualità. Ok, chiudiamo con quest'altra frase di merda. Stai de fuori. Allora, vabbè, ci stanno cose sedimentate da molto tempo, bla bla bla bla, il bambino, sensazioni piacevoli toccando lo sfintere anale. Te credo, Ani. Si chiama fase anale, cioè c'ha un nome. Nel senso? È importante anche, sai. Vabbè, io sto ancora là, salute e felicità, buon ascolto a tutti. Aspetta, finiamo la frase. Aveva sviluppato una modalità di masturbazione con una stimolazione anale. Questo fatto gli aveva prodotto la convinzione di essere omosessuale. Sì. E ne è rimasto convinto fine 30 anni. Ecco. Ma lo sfintere anale può produrre di per sé piacere a chiunque con una stimolazione. E questa persona non era affatto omosessuale. Allora, io direi bogottiamo la Jessy. Io vorrei tanto andare ai campi di ritrovo degli scout, che sono tantissimi, e volantinare a tutti questi poveri ragazzi e ragazze che sono là, che adesso hanno questo macigno sulla testa, e quindi... Mamma mia, cioè, denunciamoli, come dire, per oppressione generale, non lo so, cioè qualcosa del genere, perché per quanto mi riguarda si mettono in gioco vite e vite di adolescenti che siete sono una manica di stronzi. Siete una manica di stronzi. Beh, che siete una manica di stronzi. Sì, perché finché la Chiesa a dirlo, come dire, il pubblico è tendenzialmente adulto e la parola passa dalla famiglia al bambino, ma quando la comunicazione è diretta verso gli adolescenti si sta dicendo non devi fare questa cosa, reprimi le tue sensazioni e le tue emozioni. Sei malato. Capito? Anni 30 su Salute e Felicità, un buon ascolto a tutte e a tutti, signore e signori. E poi gliela posso dire una cosa? Sono Frocio, psicologo, e sono stato 12 anni agli scout. Se volete mi potete chiamare 328-27-3249. Certo, cara. Certo, monte. Capito? E quindi... siamo tutte Frocio e lesbiche, capito? Hai capito? E per questo se ne preoccupano. Ma loro semplicemente sono... perché è un ambiente sociale. Chiaro. Di tranquillità. No, ma continuo a dire, meglio agli scout che a sparare alle macchine che passeggiano per strada nei viali di Reggio Calabria, per quanto mi riguarda. Quindi a voglia. Scout una volta, scout per sempre. Adesso sono anche Frocio. Ciao padre sto cazzo, come si chiamava lui? Remember? Compagnone Remember degli Air. Un buon ascolto a tutte e a tutti. Prof, te voglio bene, te giuro. Allora, 22:20, torniamo su Salute e Felicità. Stavamo parlando di questo caso assurdo degli scout, del reindirizzamento. E allora, piccolo David, no, noi assolutamente non ce l'abbiamo coi gay, ma... Cioè, dire? Diciamo che gli etero... Ce l'hanno con noi! No, non ce li abbiamo. In questa casa, diciamo, C'è presente David quando giochi con le figurine? Ecco, quando fai ce l'ho, etero mi manca sempre proprio. Sempre. E quello che cerchiamo di fare con questa radio è un po' di informazione per i piccoli come te che magari sentissero tutti Salute e Felicità. Ma voi, se avete un ragazzino, portatelo da Clash, 24 ore ti torna a casa come in lavatrice proprio. Col gelato. E allora, qualche istante e chiameremo la Clash su Skype. Cioè, deve sto mettere la musica perché mi si è sfondata la cartina. This intuition lives with the keen and sufficient. All this space in the crease of this page. It takes away our E allora, signore e signori, ce la dovremmo avere in collegamento, forse, vediamo un po' come va. Ci senti, Clash? Io vi sento, mi sentite? Sì, ti amiamo, sì. Ce l'abbiamo, grazie. Ce l'abbiamo. Ciao, ciao, amore. Ciao, come state? Capirai, che ce sentini? Mi sento. Un po' Briachelli, come ogni puntata, ma ci stiamo. E allora come va, cara? Gliel'hai detto a David che non c'entriamo niente noi, vero? Gliel'ho detto, è che prima mi avete fatto una battuta e lui mi ha fatto: mammi, ma che c'hanno quei gay? Dai, no. E allora siamo pronti per questa Weirds? Siamo prontissimi, anche caldissimi. Io in vostro onore questo weekend ho fatto la monaca di Monza o di Ponza o di Stronza, come vi pare. Comunque praticamente è da venerdì pomeriggio che sto dentro casa, tipo tranne per uscire ieri per portare i bambini al parco. Dormo 12 ore per notte, così arriverò proprio nel pieno dei miei poteri. Grande, oh yeah, grande. E noi ti amiamo per questo, lo la sai cosa promette male, come voi sapete. No. E allora con chi suoni tu? Scusami, mi pare che suoni con un tipo, non mi ricordo come si chiama. Guarda, con uno che ultimamente ci siamo pure sposati su Facebook, non ho capito bene. Sai, so quelle cose, ma d'altronde si dice in questi tempi i matrimoni, no? La gente si sposa senza responsabilità. Però comunque, insomma, è uno che mi sta simpatico e ciccione come me, si chiama Ugo Sanchez. Oh, e quindi voi come vi chiamate, scusami? Noi ci chiamiamo DJs, che non è i due DJ ciccioni, ma proprio i DJ troppo ciccioni. Sono i troppo DJ soprattutto. Too Fate, too Late soprattutto, no? Quelli erano i bei tempi di Too Fat Too Late. Per il momento è stato tumulato. Tumulate soprattutto. Siamo rimasti solo noi Too Fat, ma tanto quando torneremo saremo così cattivi che proprio sarà altro che Too Late. Vabbè, grande. Per adesso abbiamo questo spunto, no? Che questa serata... Per adesso abbiamo questo spunto. Senti, ma voi invece siete pronti per Weird? Non hai capito, Gigi, come gli stavano? Si stava imbriacata domenica. Ah, proprio così. No, noi invece, come dire, tu ti stai riposando, noi invece abbiamo deciso di non dormire per una settimana intera, attacchinando... Beh. Flyerando il più possibile, preparando anche, come dire, in termini creativi la location, quindi noi venerdì sera saremo distrutte e distrutti in realtà. Yes. Terremo quei termos di caffè probabilmente. Quindi alla prima traccia cadrete addormentati e tutti quanti diranno: Madonna, senti quant'è noiosa quella Clash Mama. No! Quella suona e quelli dormono. No! In caso, per favore, fatevi gli occhiali, quelli con gli occhi aperti. Ma io mi posso mettere anche il baffo e il naso. Cioè, presente quelli con gli occhiali, ma c'hanno anche il baffo da professore dei filosofi. Guarda, Frodo, io in realtà ci avrei proprio da sottoporvi un mio sogno al riguardo. Vai. Se me devo spogliare, va bene. No, ho sognato proprio praticamente questo tipo di accessorio, cioè l'occhiale col naso e il baffo. Però nel mio sogno era un accessorio per pin-up. E praticamente invece di essere quello classico, l'occhiale era, sai, l'occhiale anni 50, occhi di gatto, tutto glitterato. Chiaro. E invece del nasone c'erano dei gran nasini francesi, poi sotto questi baffi con i ricciolini. E io andavo in giro dicendo: io non ho mai visto un accessorio così bello ed elegante. Che vuol dire, ga? Guarda, noi in chat ci abbiamo la prof, che lei pure ne sa bene di psicologia. Vuol dire tutto ok, da paura c'haissimo. C'haissimo, c'haissimo, ecco. Assolutamente. È un super gong positivo. Sì. E mi sa di sì, è proprio un sogno, come dire, premonitore. Sei prontissima per Weird. Oh, yeah. Sogno premonitore è poco scientifico, però lo prendo. Vabbè, come va. Ho capito. Così, in trasmissione. Salute e felicità così, è una rubrica tendenzialmente queer e noi odiamo nature e science, anche perché ci fanno pubblicarla sopra, quindi va bene. E quindi parla 5 minuti con Irene, ti aspettiamo a Weird e ne parliamo fra una traccia e l'altra, vediamo che succede. Dai, a proposito, David mi vuole salutare. E dai. Ciao David! Allora, no, dici qualche cosa, David. Digli qualche cosa, David. Come cosa? Come cosa? Non come l'ultima cosa che ha detto in radio, che a Viva la Radio disse: portate la vodka all'after. No! Ti adori, ti prego, ce lo ridici invece, per favore. No, caro, no, vabbè, David. Adesso non c'è più l'after, quindi non lo so, puoi dire: portate la vodka weird. Portate la vodka weird. Dai, David. Bravo David. E allora questo weird, ci saranno tutta una serie di cose. Assolutamente sì. Tu lo sai il programma, cara Clash, no, vero? Ma Clash, anzi, lo sa così bene che ci ha fatto notare che un gruppo stava venendo e noi non lo sapevamo, quindi... E diciamo avevamo dei performers che li facevamo venire neanche, dice, da dietro l'angolo, che arrivano uno e dice ciao regà, no, se siamo sbagliati. No, grazie. No, scusate, non è la serata giusta. No, ma guardate che Weird è domani, ragazzi. Ce li avremo e ci divertiremo tanto con loro, secondo me. Yeah. E sono i Psycho Bubble. Stiamo parlando di questa stage performance che ci sarà sul palco di Weird durante il set fatto appunto da Irene e da Ugo. Ci sai dire qualcosa di questi Psycho Bubble? Ma loro performano, non cantano. Loro performano, okay. Yeah. Perché se loro cantassero noi gli dovremmo dare le botte in testa e farli sta zitti mentre suoniamo. Però no, loro fanno questa, diciamo, performano, quindi si muovono sul palco durante i DJ set. Però sarà anche veramente per la prima volta anche un momento moda Weird, perché loro fanno questa cosa, si fanno loro i costumi ed è tutta una cosa estremamente anche stilosa e divertente, quindi insomma sarà anche un momento speciale. Oh yeah, e quindi invitiamo tutte e tutte coloro che ci sono state l'anno scorso a Weird e hanno goduto di quello spettacolo, di quella serata, a venire quest'anno, perché andiamo ancora di più a bomba, no? Perché ora oltre a Psycho Bubble ci saranno anche Industria Indipendente. Esatto. Oh yeah. Con una cosa che si chiama Poltiglia, Mush, e che si raccontano dicendo che la poltiglia è un composto semiliquido, molliccio e colloso di sostanze varie, fanghiglia, melma, e ridurre in poltiglia qualcuno o qualcosa, distruggere, malmenare. Beh, direi che è abbastanza, no? Spero che nessuno, come dire, metta in pratica questa cosa. No. Di fare poltiglia? No, di malmenare qualcuno. Ah, no. Ok. E allora riniziamo da capo, quindi l'11 maggio vi aspettiamo dalle ore 20:30 innanzitutto con la cena. Dai, yes. Dalla trattoria Stra Kitchen di Strike, quindi si mangerà a prezzi sociali, si mangeranno cose buone. Yes. Ma c'è già il menù? No, il menù arriverà fra qualche giorno, chiaramente. Damogli il tempo di organizzarsi. Senza il menù non mi muovo da casa. No, a Clash, dai un po'. Ragazzi, lo sapete che sono un po' sensibile al cibo e alla musica. Va bene, allora massimo mercoledì te fammo avere il menù, su Facebook. Assolutamente, quindi 20:30 si inizia a cenare e a seguire ci sarà la proiezione di ditelo voi, Fier des Putes. Ok, che vuol dire fiere di essere puttane, un simpatico documentario fatto da Irene Dioniso, che ci ha insomma dato e parla di varie esperienze di prostituzione in Europa. È molto interessante, è del 2010, ma poca gente l'ha visto perché è un documentario chiaramente autoprodotto, insomma indipendente, come dire. Quindi vi invitiamo tutti e tutte a venire a vederlo, molto interessante. A seguire appunto ci saranno le video installazioni a cura di Industria Indipendente e poi inizierà il DJ set. Yeah! Una line-up abbastanza... Sì, ci siamo. Una line-up abbastanza... Che speriamo colga un po' tutti i generi musicali e le nostre discussioni che ci siamo fatti in questo periodo, quindi che parte un po' dagli anni 80, dalla musica happy, fino ad arrivare alla techno, house e quant'altro ancora. Scusate, ma io continuo a non sentirmi. Ma noi continuiamo a sentirti. E quindi in apertura Scarfe e Bodina, che sono stati i nostri ospiti di 2 settimane fa, insieme a me facciamo questo trittico Psycho Happy and Pop. A seguire avremo Magenta e Perso Fresh Out of Order e poi appunto la nostra Irene Clash Mama insieme a Ugo Sanchez. Yeah! Che cosa ci state preparando? Che non c'è tempo per volesse bene. In che senso? Che siamo e questo troppi. È un vecchio slogan che ci abbiamo io e Ugo, perché una volta stavamo registrando un mix e c'era una traccetta che iniziava abbastanza buona e noi facevamo amica vedi che bello se volevo bene. Poi partiva uno sdanghete che non finiva più e da lì è nato perché non c'è tempo per volesse bene. Beh, ottimo direi. E dai. Quindi, insomma, quello in console è un po' il nostro slogan. Ma lo sai che noi ti adoreremo durante quella sera, vero? Ma lo sapete che noi in realtà vi vogliamo bene ugualmente, solo non c'è tempo per volesse bene, nel senso che dovete ballare, insomma, regà, non è potete stare lì così col pasticcino e un rosolio, una cosa. No, ecco. Niente rosolio, absolutely not. E dopo Clash Mama e Ugo ci sarà Strobot per la roboteria, quindi una lineup abbastanza densa. Serrata. Purtroppo ci siamo persi Lady Maru per strada, ma non è stato voluto. Abbiamo provato tutte le date di maggio, ma la nostra Maru è in tournée. Beata a lei. E quindi la salutiamo da Weird. Lei ci saluta ogni giorno. Ora yeah. Forse in Germania, non so, in Francia o in qualche al altro. Al prossimo Weird, secondo me, dobbiamo raggiungere lo scopo di avere tali e tanti mezzi di telecomunicazione da poter avere Lady Maru in tournée col collegamento col megaschermo. Oh yeah, super avanti. E allora Clash, noi ti adoriamo, ti salutiamo, ti glorifichiamo. Grazie, e ti abbracciamo. E approfittiamo perché in verità io e Irene suoniamo anche il giorno prima. Vero? C'è una doppia pubblicità. Oh, really? Ai giovani e non giovani di questa città offriamo in verità una doppietta per giovedì e venerdì. Due feste diverse ma che hanno centrali come tema entrambi LGBT, donne e quant'altro. Quindi vi aspettiamo anche giovedì sera alla Sapienza. Dalle 10, 9, yes. 11, dalle 10, dalle. Infatti, se mi posso permettere, se vi posso rubare un secondo, secondo certo. Me la cosa bellissima che a me piace tantissimo di questo weekend che ci aspetta tra giovedì e venerdì è che finalmente sono due serate di musica, però anche di politica o comunque di sociale, come vi pare, al di fuori dai club, in spazi finalmente liberi che uno rivendica in maniera completamente differente. A me sta cosa mi pia una cifra bene. E allora guarda che stai in un tunnel, perché sai bene che noi c'è sta marota di sta roba. Il tunnel sta presa bene. E è bella questa presa bene anche perché, come dire, Weird, come l'anno scorso, ha avuto la capacità di mettere insieme tutta una serie di pezzi anche, no? Di uno scenario musicale romano che a volte si parlano e a volte no, e quindi mettere insieme tutti quanti e lavorare per uno scopo, un obiettivo che è quello del divertimento alla fine, ma anche mandando dei messaggi è bello importante. Quindi io approfitterei ad esempio anche per salutare Luke, che è il nostro grafico ufficiale di Weird. È vero. Che è colui il genio che ha creato Weird l'anno scorso con la Fontanella girata e quest'anno con le dita del giudizio universale. Poi vi leggeremo anche il suo racconto, il suo perché delle dita. Luke doveva essere qui con noi questa sera, ma ha la febbre. E no, quindi porra. Gli abbiamo detto rimani a casa e ripigliate per venerdì, non c'è problema, non ti preoccupare. Però ci sono state tante menti e tante mani che hanno collaborato a questa serata e speriamo... Andrà benissimo. Ecco. Andrà benissimo, al grido di Arripiamose, tutto soprattutto. Sentite, io vi lascio che porto i miei pargoli a letto. Buonanotte Clash, buonanotte a David, soprattutto agli altri pargoli. E vorrei chiudere su questo, come dire, su Weird. Buonanotte pargoli, ciao Irene, a giovedì, ciao, e a venerdì, grazie. A tutti voi. We ciao. Love you, ciao. E volevo chiudere dicendo che appunto, come ci ricordava Irene, spazi sociali, l'università così come Strike, che ci ospita per il secondo anno di seguito per permetterci di finanziare questa volta il festival che ci sarà il 4, 5 e 6 ottobre, si chiama Weird Festival Euforia di Genere, sarà yeah. accompagnato da appunto non solo da musica ma anche da videoproiezioni. E a proposito di questa cosa, le videoproiezioni saranno a cura di Paco Nazim versus Extens per quanto riguarda Amigdala e Glamda, da Noisec de Subwoofer e da Myopic Project. Oh yeah, allora... Quindi che dire, vi aspettiamo venerdì 11 a Strike, via Partini 21, o meglio Portonaccio per chi non sa dove è collocato via Partini. Yes. L'ingresso è a sottoscrizione perché vi ricordiamo che tutto il ricavato andrà per costruire il festival, sono 5 euro ma i prezzi degli alcolici sono più o meno sociali, abbastanza sociali anche quelli della cena. Oh yeah. Venite a ballare, venite a divertirvi e anche a scambiarci, come dire, un po' di idee sui temi che intanto abbiamo preparato noi ma che sono, come dire, liberamente attraversabili da tutte e tutti. Yeah, abbracciatevi, toccatevi e amatevi l'un l'altro come Frodo ha fatto con voi. Come no, non mi è passata questa cosa peace and love, mo. No. Vabbè, però abbracciatevi, vogliatevi bene. No? Va bene, non attacco la pippa. No, non attacca la pippa. E allora, concludendo questa cosa, sono le 22:36, io lancerei un Weird Day. Yeah. Quindi... Thank you. Senti che musichetta che t'ho trovato, G. Dai, dai un po'. E allora, mercoledì, questo, invitiamo tutti e tutte coloro che fanno parte di qualche social network qualsiasi, dalle 8 del mattino alla mezzanotte, spam continuo per Weird Fest, perché su Facebook può scaricare dall'evento l'immagine per il profilo e per l'immagine del diario, chiunque abbia Twitter o qualsiasi altra cosa, come dire, spam, spam, spam, mercoledì Weird Day. Così pubblicizziamo tutti insieme questo super evento party di venerdì. E, un evento dire? Sociale che parla di corpi e di esperienze LGBTQ, ma anche di movimento, di sociale, di interesse, di prostituzione e non solo. E come dice il nostro slogan, dance for your right, ma soprattutto yeah. Il piacere è rivoluzionario. E sono le 22:41 ed eccoci tornati in voce. Siccome siamo partiti come quella cosa che si fa in mail e si chiama mail bombing, ora siamo in voce bombing. Yes. Indovinate un po' che cosa vi ricordiamo devo. Che venerdì 11 maggio Weird è una festa di autofinanziamento per un festival che l'anno scorso si chiamava Io sono Io Scorro, ma quest'anno è cresciuto ancora di più. E secondo me la, eccola, siamo un po' famiglia. Eh sì, per ripigliarsi un po' con la comunità LGBTQAEXYZ e incontrarsi a Strike in un posto sociale dove di solito non ci vediamo mai. Se non 4 giorni a settimana su 7. No, no, non ci vediamo noi, non ci vediamo mai con la comunità. E parlare di intersessualità, di transessualismo, di prostituzione, di corpi, di teste, di politica, di sociale, di desideri, di piacere. Yeah. Che saranno gli stessi temi che poi ci saranno, no? A ottobre, mi ricordi, scusami, quando? Il 4, il 5, il 7 ottobre presso il Forte Prenestino, via Federico Del Pino, numero XY Z Z E G U. T N B andiamo avanti. sì, appunto, festa di autofinanziamento per questo festival gigante. Dall'anno scorso siamo appunto usciti dall'università per cercare di ampliare un po' lo spettro delle cose che avremmo trattato, che abbiamo trattato in realtà all'università, provando a mettere insieme quello che a noi ci piace chiamare sociale, politico, yeah, con culturale. Yeah. E allora, se venerdì sarà un'ottima occasione per ritrovarci insieme per festeggiare questo Weird, che ormai è l'evento annuale che coinvolge tutti e tutti, vi aspettiamo anche il giorno precedente alla Sapienza. E in diretta con noi abbiamo Tintolina. Dai! Proviamo a chiamarla. Tinta, ci senti? Eccola! Dai! Tinta, abbassa la radio! Cioè l'ABC proprio della Rai proprio. Puoi abbassare un poco il volume? Un poco il volume. Grazie. Buonasera. Buonasera, meraviglie. Ciao Lobby. Tutto bene? Siete spettacolari comunque. Ho passato un'ora a cercare di connettermi sulla chat e poi ho abbandonato l'idea. Non ce lo dire, non ce lo dire, ti prego. Oh yeah. Indipendente, yeah, pirata anche un poco, diciamo. E allora siamo una famiglia, vero? Come va? E quindi che cosa fate voi, amori miei? E quindi innanzitutto tutti e tutte a Weird, io arriverò il prima possibile dopo lavoro, ma vi auguro una fantastica giornata. So che sarà dura, ma dai, è forte tutte e tutti, innanzitutto. Ammazza! Abbiamo un fantastico davanti, un fantastico weekend davanti, devo dire, niente male. Giovedì ci sarà una bellissima festa organizzata dalle Malefiche, il collettivo di studentesse della Sapienza. Una festa che vuole parlare un po' come Weird, siamo molto vicini, come dire, nelle tematiche, vuole e nei tempi e nelle date. Esatto, di tutto. Degli ospiti vari. Sì, assolutamente, diciamo che ecco appunto un bel weekend interessante, sicuramente fuori dalla norma, e questo a noi ci piace tantissimo. Sì, sì. In uno spazio sociale come appunto Strike per Weird, piuttosto che l'università, per quanto ci riguarda, estremamente aperto. E la nostra scelta è stata appunto nessun tipo di ingresso, l'apertura a tutti e tutte di questa serata, una serata che prevederà diverse performance. Abbiamo drag queen, drag king, body performer, DJ, appunto, già si sono svelate due, PSV DJ e Clash Mama, Irene appunto. A proposito, grazie per le parole di prima. Oh, figurati, cara. Una strada aperta a tutti e tutte in cui si parlerà di corpi, si parlerà di autodeterminazione, si parlerà sicuramente di orgoglio, di LGBT, di donne, ma anche di violenza, di lavoro, che non c'è, cioè, anzi ce n'è sempre di meno nel nostro paese, di precarietà. Cercheremo di tirare fuori, ecco, una serata altra rispetto a quelle che si vedono di solito in giro, e speriamo appunto nell'appoggio di tutti e tutte. Una festa che viene da una serie di iniziative che le malefiche hanno... Infatti leggevamo una locandina molto molto fitta. Hai visto? Dici un po' gli appuntamenti che ancora si possono seguire. Uno, esatto, è stato venerdì scorso, quindi andato, era sulla crisi, il debito, ovviamente l'attualità, con un taglio di genere, una prospettiva appunto da un punto di vista delle donne, da un punto di vista delle lesbiche, dei gay, dei e delle trans, il punto di vista delle migranti, è stato appunto un tavolo bello nutrito. Abbiamo invece martedì un secondo tavolo di discussione che tratterà di sesso e potere e tratterà di sex work. Il titolo del tavolo è Orgoglio e pregiudizio, sarà martedì alle 15 nella facoltà di lettere alla Sapienza. L'orario è un po' proibitivo, mi rendo conto, però purtroppo l'università ha dei limiti di orario che non possiamo superare, ma che supereremo sicuramente. Dopodiché invece mercoledì il terzo e ultimo tavolo tratterà un po' di quella che è stata l'evoluzione dell'immagine e dell'immaginario dei corpi delle donne, ma anche dei soggetti LGBT nel corso degli anni, dalla nascita della televisione a poi lo sviluppo della pubblicità. Ne parleremo con due giovani laureate in diverse cose, però insomma ne tratteremo da un punto di vista politico e un punto di vista un po' più iconografico e di immagine, appunto. Quindi yeah, terzo e ultimo incontro con appunto la festa giovedì sera, e daje tutte e tutti. Dalle ore? Quindi dalle ore? Dalle ore 22 noi saremo lì da prima, se volete venire a iniziare a fare un aperitivo e continuare così la serata. E comunque dalle ore 22 circa, insomma, mezz'ora più mezz'ora meno, e fino a che ne abbiamo voglia e a che lo desideriamo e a che ce la facciamo. Soprattutto. E allora il giorno dopo weird, e sarà un'altra bella giornata, insomma, c'è, diciamo, bisogno. Che tra giovedì e venerdì ne sentirete di cotte e di crude, e di grasse e di magre, se posso di aggiungere, grasse e di magre. Soprattutto grasse, per favore. In ogni caso, dicevamo, sicuramente grazie di Inda, grazie a voi, un intervento non conforme sicuramente a questa salute e felicità. A proposito, volevo ricordare che nel bivacco ma tu Aredi, vero? Aredi, ho anche i banchetti di Weird Fest, appunto, per continuare oltre mercoledì a spammare anche giovedì notte la serata di Weird alla Sapienza, appunto, quindi i banchetti di Weird, il banchetto anche, approfitto per dirlo, del collettivo delle Ribellule, che stanno appunto portando avanti il progetto rispetto allo sportello antiviolenza, quindi un banchetto anche di una stanza tutta per sé. Yeah. Yeah, sì, l'ho detto, già che ci siamo, io vi bacio tantissimo. E non che ci sarà anche un banchetto di Orgogliosamente. Oh, scusa amore, sì, è vero. Amore, mi caschi qua. Oddio. We are family. Oddio. Guarda che devi ritagliare le lettere del carro anche quest'anno, perché c'è sta il Pride anche quest'anno. E quindi approfittiamo per dirlo, chiunque l'anno scorso è venuto al Pride e ha seguito il nostro camion di Orgogliosamente e vedeva quelle fantastiche lettere in 3D con scritto Proud to be Fabulous, è stata esattamente la nostra Dinda che ha passato giorni e notte a tagliare questi cazzo di cartoni. Quanto? Di Workhouse. Si chiama il Polyplat, il vero? Polyplat. Bravo amore, bravissimo. E pensa che io, tesoro, ho ancora il tuo cuore nella mia cucina. Io così meraviglio. Uno spottino di amore per te. Quanto orgoglio, comunque, quanto orgoglio. Assolutamente. Quindi, sì. Un pacchetto di Orgogliosamente verso il Pride quest'anno, di Bologna il 23 giugno, di Roma il 23 giugno, mentre di Bologna il 9, 6, giugno, il 9, scusatemi, il 9 giugno, Bologna, Pride nazionale, a Roma il 23 giugno, ne approfitto per l'ultimo spottino che è il prevede, si può dire? Chiedo, si può dire? Sì. Certo. Ufficiale, ufficioso, aspetta. Non si sa. Giustamente Null Pointer dice: tesore e tesori, io c'ho ancora lo sgarro sulla schiena per montare quel camion. L'autorganizzazione costa per le nostre mani. Sì. E certo. Mentre Dinda tagliava, noi attaccavamo cavi e qualcuno si arrampicava sopra a 12 metri di camion, Null Pointer si sgarava la schiena. Ti vogliamo bene, Null Pointer, anche a te. Bene. A proposito di questa cosa, vi ricordiamo, anzi vi diamo questa notizia, annunciamo è il primo annuncio ufficiale, forse è il 16, 15, 16 e 17 giugno. Secondo me il 16, 17 e 18, ma vi daremo le date appena avremo alla mano un calendario. Riproporremo il Pride Park in piccolo, però questa volta non sarà Piazza Vittorio, ma bensì, come dice la nostra amica, bensì, e invece c'ha ragione la mia conduttrice PsicoV, il 15, 16 e 17 giugno, sarà ai Giardini Nucitelli. Per chi non li conosce, basta dire una data, cioè la festa del 25 aprile, tutti si ricordano che dov'è questo posto. Quindi faremo appunto questo Pride Park che è in costruzione, e a questo proposito vi invitiamo alla riunione di mercoledì sera alle ore 18:30 presso il Circolo Omosessuale di Cultura Omosessuale Mario Mieli. Ho sbagliato la data della riunione? Sì, può essere! Può essere! No, sono sicura che è mercoledì. No, è giovedì. È giovedì, sì. Perché noi in teoria andiamo prima alla riunione e poi andiamo alla festa. Oh yeah! Scusate, vi invitiamo giovedì sera alla riunione per ore 18:30 al Mario Mieli. Yes, Dinda, noi ti vogliamo da morire benissimo, e quindi forza malefiche alla Sapienza giovedì sera. E yeah. With love, ci vediamo tante volte in questa settimana, quindi a presto. Tantissimo love per voi, buon proseguimento, buona serata, vi amo tanto. Anche ciao, noi, ciao Dindalina! Ciao Bacetti, eccola! Nature. It's already been done. Undo it. It takes two. It's up to me and you to prove it. Si continua, signore e signori. Vero? Certo, mica andiamo via così. Un'altra mezz'ora di salute e felicità. We'll be right back. Ed eccoci tornati in voce dopo The Hacker. Sì, una canzone che alza il volume, alza anche, come dire, il livello della musica. Oh yeah. In gergo tecnico. Yeah. Campeggia sul monitor uno striscione ARG. Che forse è l'unica cosa interessante che c'è stata durante questo primo maggio, a parte René Ferretti, che gli vogliamo bene al microfono come presentatore, però. René. E dai un po'. Non so è chi quello è. Come René Ferretti, quello di Occhi del Cuore. Ma sai tutte e due queste cose, comunque. Ah, spegni la radio, accendi la televisione. Non so la televisione. E compratela. Dicevamo 1400 morti all'anno, una repubblica fondata sulla strage, recitava questo. Perché, come dire, hanno sgamato che al palco della CGIL, della CISL e della UIL, lavorava gente in nero. Stai scherzando? No. Ebbene sì, quindi, mentre i contratti spariscono, che cosa succede in Italia? No? Che la gente muore sul posto di lavoro o si uccide per la crisi economica. Oh yeah. Però noi la manovrina abbiamo giusto toccato. No, quella... welfare l'abbiamo poco toccato. L'articolo 18 non l'abbiamo proprio sfiorato. Secondo me sono i giornalisti comunisti che hanno capito welfare al posto di wafer. Il wafer, noi l'abbiamo solo toccato, il wafer. I wafer. Quelli buoni, come si chiamano i wafer buoni? Quelli con tutti. A me mi piacciono i gentilini, cicci, c'è poco da fare. Quanto sei nazional popolare. Ho capito, i gentilini. A noi, i wafer. Vabbè, comunque dicevamo, sicuramente c'è stato un corteo, sicuramente un corteo non conforme, no? Dico io perché... Comunque basta dire non conforme. Dai, ho capito, cioè, almeno basta. Si va per... No, c'è stato un corteo molto importante questo fine settimana, o meglio ieri. Ieri? C'è stato un corteo... Sotto casa, sotto l'iglu di Piazza Vittorio, mi faccio notare. Sotto l'iglu di Piazza Vittorio, è partito un corteo, indovina contro chi, dai, la puoi fare. Contro secondo chi? Me contro Tremonti. Tremonti? No. Il passato governo era Tremonti. Vabbè, è un'eredità del passato. Tremonti sopra il cielo. No, e adesso no, è Tremonti sopra il clero. No, contro chi? Per cosa? Ah. No, per cosa e contro chi? Ma per cosa? Per cosa? Comunque Stagger c'è per sé. È certo. Allora, utilizza un network anonimizzante, utilizza autistici inventati.org. Era The Hacker. Dicevamo quindi, Roma che fa? Difende Roma? Roma difende. Difende che cosa? L'acqua. Ma se piglia 4 gol a domenica a Roma. No, non la Roma, la città di Roma. Ah, scusami. Non la Roma, l'avevo capito. Allora ti cambio sottofondo e ti metto una canzone, sì, seria. Sì, per forza, ti prego. Ce l'abbiamo. Voglio. Eccola. Secondo me la riconoscono. Penso che un sogno così non ritorni mai più. Mai più. Mi dipingevo le mani e la faccia di blu. Penso che un sogno così non ritorni mai più. 1.200.000 romani che dicono no alla privatizzazione dell'acqua. Bada boom! Referendum dell'anno scorso. Nel cielo infinito. E Alemanno fa finta. Da de niente. Cantare. Come si fanno i vaghi proprio? Volare, cantare, Alemanno, abbiamo vinto il referendum. Sì, abbiamo vinto, che diceva una cosa. Sì all'acqua pubblica. Chiaro. No al nucleare, attenzione. No, sì. Nello specifico diceva no alla privatizzazione dei condotti e della vendita dell'acqua. Quindi chiaramente diceva sì all'acqua pubblica in general generis, ma diceva no a nessun tipo di privatizzazione di chi distribuisce acqua nel territorio nazionale non. Beccate questa. Si confu conduttori 1-0 stasera. No, io sto a dormire perché sto a dormire. Però la cosa. Però l'acqua non si tocca. Però l'acqua non si tocca e il referendum non era appunto vogliamo l'acqua pubblica che è una richiesta. Così, aleatoria, chiaro. Ma date le minacce che Alemanno faceva rispetto ad Acea, si fece il referendum proprio nello specifico rispetto a appunto alla distribuzione dell'acqua. quando l'acqua è una tavola blu, dicevamo? Invece... perché te non bevi e noi beviamo. Ma non bevo la metà. Colori. E invece succede che appunto Alemanno sta provando ad appaltare, a fare vari impicci introiti con l'amico Caltagirone, amico suo Caltagirone. Stanno provando a fare una cosa terrificante. Terrificante. Compra una vocale. Buongiorno, non è con me. È la sindrome dell'annunziata, che la T e la D sono più o meno la stessa cosa. Io direi che più la sindrome di gente del sud, però è la sindrome. La sindrome. Non le sindromi, ma la, la sincope. Vabbè, anche. Tutto questo per dire che qual è il tentativo del caro sindaco fascista? È quello di vendere il 21% di Acea, e chi vive a Roma lo sa benissimo che cos'è Acea, perché gli arriva la bolletta ogni tot, quindi lo sa. Senti che groove che c'ha sto brano. Colori, dicevamo? Dicevamo che il 21, se il comune, come dire, vende il 21% delle azioni di Acea, significa che va in minoranza e quindi privatizza l'acqua a Roma. Che è esattamente la stessa cosa che hanno fatto nel 2000X, quando c'era la Disu. Hanno venduto la metà delle azioni per privatizzare... Quando è diventata Lazio Edisu, e quindi da agenzia per il diritto allo studio è diventata azienda per il diritto allo studio, e con la vendita percentuali di passo dopo passo se siamo fottuti pure la Disu. E allora se la Disu era il diritto allo studio, l'acqua è l'acqua, per cui è un bene comune e non si vende assolutamente. È stata importantissima la manifestazione di sabato, e se ce ne sarà bisogno si tornerà in piazza sempre e comunque tutti i giorni fino a casa d'Alemanno. E io direi di dare questa notizia, e sentiamo oggi per radio, che era molto simpatica. E chi ha le piante a casa e gli dà l'acqua di cosa? Qualsiasi tipo di piante. Scusa. Piante, quelle che c'hai sul balcone che tu non hai a livello di Piazza Vittoria, ma la gente c'ha dei balconi, c'ha delle piante. Guarda che questo è rosica. Piante di noi. Sto a Rosicago. C'ha pure la lattuga dentro casa, per c'è cui. Pure la cavalletta. Me l'ha regalata me l'ha regalata Roscella, la lattuga cara. Yeah. Un dolcissimo bacio. Dicevamo che se non volete, come dire, se perché spesso si dice non sprechiamo l'acqua, ma a volte l'acqua serve, no? Per cui nera, sei diventata nera come il carbon. Sei diventata nera. Si chiede appunto come fare un consumo critico di alcune cose, e noi vi diamo una piccola pillola che, rispetto appunto a per annaffiare le piante senza utilizzare l'acqua del rubinetto, potete riutilizzare l'acqua con la quale avete cotto la pasta. Ovviamente fredda, se non uccidete la pianta. Ma gli fa molto, molto, molto bene. Voi risparmiate quei 2 litri d'acqua che vi servono per bollire la pasta. Anche l'acqua con cui avete lessato le verdure, perché alle piante pare che le piante siano ghiotte, e anche le piante si nutrono. Ci hanno bisogno. E voi risparmiate 2 litri d'acqua e li buttate. Saremo soli, io e te. Appunto, che ieri c'è stata una grande manifestazione. Oh, si incazzano quando gli metta la musica, sì, comunque. Sì, c'è Rosy che no. In mezzo di Riccardo del Turco. Cosa hai messo nel caffè che ho bevuto su da te? Capito? Cosa hai messo nel caffè se l'acqua non c'hai più? Dai, c'era un senso, capito? Che mi fai il caffè con la vodka? Sei un po', dai, un po'. Sei un po'. Potremmo chiedere a David. Passaci la vodka. Ieri in realtà ci sono stati a Roma un po' di persone che hanno manifestato appunto per dire che la privatizzazione di Acea e dell'acqua pubblica non deve avvenire. Il corteo era molto grande. La cosa bella è che dopo il risultato del referendum, come dire, su una chiamata alle armi rispetto alla difesa di un bene comune come l'acqua, che tra l'altro io per persone del sud so molto bene cosa significa rimanere dei giorni senza acqua, perché non ce n'è mai. Yes. Fare le scorte, dicembre o agosto che sia, proprio. Fare le scorte, per cui se yes. ti fai la doccia la devi centellinare, perché ops, l'hanno tolta anche oggi. Che se no arriva tua sorella e te sbrocca e ti dice: ehi, mi sono potuta lavare i capelli perché ti sei fatta la doccia. Sicuramente l'acqua sicuramente della doccia non è conforme. No, no, assolutamente. No, sicuramente l'acqua minerale fa il caffè del merda. È una zecca. Tutta mia la città. E quindi la città è stata per un giorno di nuovo ancora tutta del movimento dell'acqua pubblica, per l'acqua bene comune, perché Alemanno ha deciso di vendere l'acqua facendo il super vago, certo, a Caltagirone, certo. Chi? Uno nuovo Caltagirone sicuramente, sì, sì. No, è tardi, io parlo di Caltagirone, io sono De Ostia. Ma chi è questa? E quindi non voglio parlare di Caltagirone, perché per l'anima sua. Ma che poi Alemanno è sposato con la figlia di Caltagirone, se non mi ricordo, sì, male, una roba, no? Del genere, però. Ma che? No, regà, no. No e no, è sposato con la figlia di Rauti. Di Rauti. Scusate. Comunque sia, per colpa di Caltagirone, tanti anni fa la Pineta di Ossi ha preso fuoco per cementificare una grande area verde che era il cuore, il polmone verde di Roma. E io, sicuramente, Caltagirone, penso che se un giorno lo incontrassi lo potresti codrifiggere. Per favore, non parlassimo di Caltagirone, perché io poi sono molto stanca e molto tardi e non capisco molto bene, perché è tutta una questione di molto. Sì, di molto in che senso? È tutto molto. Aspetta che c'è un altro intro per la canzone dell'acqua, eh? Eccola. Marina, ebbene, dicevamo. Come ad ogni puntata io mi dissocio dalla playlist perché ho un'etica musicale, però la cosa interessante è che pare che la devo dire questa cosa, scusatemi. Cioè, ah, Fornero c'ha ragione. La Fornero, chiedi al 77 se non sai come si fa, per quanto mi riguarda, per la Fornero. Che forse il PD qualche cosa la sta facendo. No. Beh, si è appezzato Roma, ho scritto 1.200.000 euro, mani, no, dicono no. Hanno presentato 100.000 emendamenti sulla questione della 100.000 emendamenti sulla questione della privatizzazione del 21%, sulla vendita del 21% delle azioni di Acea, con l'idea di inchiodare il sindaco fino a quando non li sbroglia tutti. Della serie, però, quando vogliamo le cose le possiamo fare, mortacci loro pure a loro. Niente, sì, stasera sono diciamo parolaccia. Scusate. Parolacce, diciamo che terremo d'occhio questa situazione. È vero anche che ieri è stata una giornata di cortei per la città di Roma. C'è stata una cosa che viene, cioè, come dire, una manifestazione che viene fatta ogni anno, antiproibizionista, che si chiama la Million Marijuana March. Aspetta, che ce l'ho. No, come ci avete abbandonato? Eccola. Mi promote. Com'era? Eccola. Oh no, mi è scappata, caspiterina. 39, eccola. E allora, che è successo? Baracca Sound. Altro bene comune. Senti che te dico, sai per me cosa sana. Senti il suo profumo dentro la settimana. Promote marijuana. Lo sai per me una cosa sana e mi promote marijuana. Senti che te dico, sai per me cosa sana. Senti il suo profumo dentro la settimana. Promote marijuana. Lo sai per me cosa sana. Me fumo l'erba, quella con il pedigree. Quella che se te la fumi sai che mode fa salì. La voglia di cantare, zumpare, ballare. La voglia di star bene su sto ritmo levare. Perché passare una canna non può essere legale. Adesso te lo dico, per me è come un rituale. uguale, da solo con gli amici e il sorriso devi uguale. Attento mo te spiego un po' la fase strutturale. Primo passo, lo sai che Maria non è liberava col riscatto, con poco dei soldini dalla vaga l'apparato, ma spesa fu più saggia te prometto. L'aspetto quando esco il trida erba in tasca metto. Mi promote marijuana, senti che te dico serve me cosa sana, senti il suo profumo dentro la settimana. Promote marijuana, lo serve me una cosa sana. E mi promote marijuana, senti che te dico serve me cosa sana, senti il suo profumo dentro la settimana. Promote marijuana, lo sai per me cosa sana. Con che faccia vieni dai vischelli solo per cercare traccia, gli hashish marijuana non è questa la minaccia. Il problema adesso è sai che chi rovina spaccia, protetto da un sistema che la mafia sai appoggia. Il problema della droga vuole una risposta, ma proibire l'erba sai che non è quella giusta, così mandi in galera tutta quella gente onesta e lasci in giro chi brucia la testa. A me mi piace annusarla, toccarla, tritarla, ma non voglio spini, voglio averci c'è una palla, deve essere così tanta da riempirci una stalla, deve essere tipo l'acqua alle terme di Caracalla, perché se siamo rotti il cazzo di comprarla, voglio la possibilità di coltivarla, mi sono rotto il cazzo pure di giustificarla. Ispettore, c'ho l'asma una palla, mi promote marijuana, senti che te dico se per me cosa sana, senti il suo profumo dentro la settimana. Promote marijuana, lo sai per me una cosa sana. E mi promote marijuana, senti che te dico sai per me cosa sana, senti il suo profumo dentro la settimana. Promote marijuana, lo sai per me cosa sana, lo sai per me cosa sana. 23:20 e torniamo qui su Salute e Felicità, lo sai per me cosa ultimi 10 minuti. Loro erano i Baracca Sound con Mi Promote Marijuana, perché questa è una trasmissione anche un po' antiproibizionista. Antiproibizionista. Però torniamo al discorso di prima, no? Delle manifestazioni che ci sono state a Roma, e questo era a tema. E questo era a tema perché a Roma c'è stata appunto la Million Marijuana March. Oh yeah. Così come in altre 420 città nel mondo, per esigere tre cose, diciamo: la fine della persecuzione per i consumatori, yeah, l'accesso immediato all'uso terapeutico per i pazienti, il diritto a coltivare liberamente la cannabis, patrimonio dell'umanità. È un po' tra l'acqua del mare, l'acqua bene comune e la cannabis sulla playa. Ed era la 12ª edizione italiana della Million Marijuana March, dedicata a tutte le vittime del proibizionismo, massacrate di botte in galera o ancora prima di arrivarci. E ci ricordiamo ancora Stefano Cucchi. Ci ricordiamo Aldo Bianzino. Come dire, una cosa bella, cioè una cosa che mi piaceva, diciamo, in Baracca Sound: non la vogliamo legalizzata, ma vogliamo la marijuana cioè la cannabis liberalizzata, nel senso, io voglio piantarmela. Chiaro, non cazzo, voglio stare lì e me la vado a comprare. È no, un seme, la terra e l'acqua. Chi il la sole. Vieta e il sole, chi la vieta non fa altro che il gioco delle mafie, c'è poco da fare, eh. Una cazzata così pensava Le Manno, no? No, la cazzata da tieni comunque. Sei in ritardo. No, pensava Le Manno, c'è Atac e Ama. Là no, il problema? Sì. Ale Manno come Atac, c'è Ama. Per me la mattina si è svegliata. Ali mortacci sua. Esatto, è come l'Imu. Come va a fine anno li mortacci tua. Per me una mattina si è svegliata e ha detto: come posso essere io oggi un po' più padrone di questa città? Prendo tutto ciò, compro tutto quello con la A. E alla fine sull'Atac ha fatto quello detto che ha culo fatto. Però, eh? Acea sta a fare quello che sta a fare. L'Ama, non ne parliamo? No. La Madonna. Vabbè, io metto le scarpe e me ne vado. Buonanotte a tutti e a tutte, è stato bello. Ha rosicato su sta storia. Sì, è un po' stanca. Sono un po' stanca, ragazzi. Scusate, c'è una settimana difficile, la prossima ancora peggio. C'è Weird Fest, c'è Chromosonic Gender Rules Rock Gender Rouge Mesh. Di che stai a parlare, scusami? Da festa di Emma Feliche. Ah, De Malevi. Poi in online. Dai, e Bodina. Ciao, Bodina. E allora... Vabbè, rimanga altri 5 minuti. Oddio, dai. Hai fatto il miracolo. E allora... Scarpe e Bodina, vi aspettiamo per tresciate e altre simili a Weird Fest, la festa del bivacco. No, no, beh, però bivacco. Basta con questa cosa del bivacco, raga. Cioè, no. Orgo gogliardica. No, no. Turbo gogliardica. Orgo. No, vabbè. Orgasmo gliardica. Ah, possiamo dire un'altra cosa? Loro sono... Chi sono? Secondo loro me chi? Li conoscete, eccoli. Loro sono gli Strokes e mancano solo 6 minuti alla fine. Noi avevamo altre 46.000 cose da dirvi e quello come è il problema. Tutte le puntate ci siamo persi qualcosa, qualcuno o qualcos'altro, certo. Non lo so. Comunque c'è stata questa manifestazione dell'acqua, c'è stata la Million Marijuana March. Non lo riesco a dire, questa okay. Cosa non la riesco a dire. C'è stato invece il corteo, scusatemi, ci sarà questa settimana la festa delle malefiche giovedì alla Sapienza. Città universitaria, oh yes. O meglio Piazza Aldo Moro numero 5. Yes. Verdi ci sarà, come vi abbiamo già annunciato, riannunciato e bombizzato Weird ore 20 a Strike, via Partini 21, o meglio Portonaccio per chi vive a Roma. Ma raccomando, mercoledì vogliamo un Weird Bomb, quindi su tutti i social network, sulle radio, su, che ne so, nei casi, accendete le bandiere, innalzate i swan outs, copritevi le orecchie, mettetevi le dita nel naso e spammate Weird. Sì, fate ciao. L'amore, se può dire anche un poco, eh? Sì, sì, e fatelo Weird. E siccome ce lo chiedono, ricordiamo l'appuntamento di giovedì sera alle ore 22 alla Sapienza, piazzale Aldo Moro numero 5, per la festa del collettivo femminista. No, no. Il collettivo di studentesse le malefiche. Scusatemi, di studentesse le malefiche, giovedì sera. E io ce l'ho un altro pezzo che vi volevo mettere prima che ce ne andiamo a dormire. Certo, e prima che ce ne andiamo a dormire non vi possiamo non lasciare con la nostra fantastica ricetta. Anche è un po' che non leggiamo questa fantastica ricetta. Ricetta che simpaticamente il nostro amichetto Nero Bear ci dà ogni settimana. Che ci instagramma anche mentre torna da Padova, dove Pon to be alive ha avuto un'altra giornata di gloria. E i Subwoofer Bears, un gruppo di orsacchiotti omosessuali di Roma, hanno portato l'idea della prevenzione delle malattie sessualmente trasmissibili anche a Padova oggi. E ci ha appena instagrammato una foto in cui dice che si avvisa la gentile clientela che si esce dall'entrata. In che senso? Beh, a voi intenditor poche parole. Non c'è dubbio. Che gong, direbbe la nostra cara amica Lady Maru. E gli vogliamo bene, quindi ecco la ricetta. Un'altra quiche. Ovvero? Di come gli asparagi, e come direbbe un bambino che io amo tanto, lo spapago. Come lo spapago? Gli asparagi. Ti fanno tornare bambino, appunto, lo spapago. Well, find it. Pick. E sono le 23.30, quindi amori miei, purtroppo non ce la facciamo a leggervi la ricetta, ma come al solito sta su artfoodandothergaythings.wordpress.com. E vi ricordiamo che Salute e Felicità sta con il Cartella, che si è visto ancora una volta entrare dei topi di fogna nella propria sede e rubare l'incasso, le salsicce in frigo e tutte le birre che stavano nel frigo, appunto. Mortacci loro. Ste grandissime merde. Salute e Felicità e Transizione di Fase stanno con il Cartella, il centro sociale che a Reggio Calabria da 10 anni resiste e continua a fare iniziative. A breve un'iniziativa su Peppino Impastato. Voi non potete fermare il vento, gli fate solo perdere tempo, conclude il comunicato. Stiamo con il Cartella, se non si fosse capito. Cornelius. E quindi come al solito andiamo di fretta alla fine, vero? Andiamo di frettissima. Questo è quello che io dedico a Salute e Felicità. Oddio, sembra il Titanic. No, sembra il microfono che fischia comunque in radio. No, comunque scusate, ho una precisazione. Il collettivo Le Malefiche sono femministe. Dai un po'. Contenta di questa cosa io pure, poi voi raccontare noi che questo dibattito grande fu c'è stato. Compagno femminista, sei il primo della lista. Sì, ma non le compagne femministe. No, dicevo a me. Uniamoci per ammazzare il compagno femminista prima della lista. Ma no, ma che ho combinato? O per chi lo capisce che è connesso in radio, non so se c'è qualcuno, compagno oralista, sei il primo della lista. Ecco, beccate questo. Poi ne parleremo. Sicuramente. Un orecchio fuori norma, lo dobbiamo correggere. 23.31, buonanotte. Ok. Vabbè, qui premono, voglio solo dare un'anticipazione. Yeah. La prossima puntata, brava. E che pensi che stanno a pettinare bambole qua, scusa? No, la prossima puntata, quindi la prossima domenica. Dalle domenica 21. Prossima, sempre dalle 21 alle 23.30, non ci sarai? No, qui c'è sarta la festa. Questa c'è sarta la festa. Vabbè. Se non spammate la puntata, Psicobus è deprima e ci viene più per le ultime due puntate, eh? Vi vogliamo... Numerosi e numerose in chat, perché parleremo di salute mentale. Perché parliamo di salute mentale, scusami? Perché il 13 maggio. Weird non nasce da una data a caso. E qui lo diciamo. Lo neghiamo. E lo diriremo. No, scusa, cosa facciamo? Lo diriremo. Ciao Dinda. Faccia il filtro, Frodo. No, e qui dobbiamo dire che Weird l'anno scorso nasce non in una data casuale. Era l'8 aprile. Era l'8 aprile. Ah, abbiamo fatto il convegno noi il 13 maggio l'anno scorso. Ma siamo, lo vogliamo attaccati dire un po' alle date. Cos'è il 13 maggio? Cos'è Psicobu il 13 maggio? Ignorante. Però che cos'è il 13 maggio? A scema. Io penso saranno che passati la prossima puntata, così lasciamo la suspense. Oh yeah. E la prossima puntata faremo questa, a parte ve lo potete immaginare, se è una puntata come una special sulla salute mentale, a che punto è la legge sugli OPG di cui abbiamo parlato? A che punto è la situazione della salute mentale in Italia e in particolare nel Lazio? Tutto questo e altro ancora. Se usciamo vivi dal venerdì di Weird. E dal giovedì delle malefiche ore 22 alla Sapienza. Dal sabato del corso e dalla domenica di lavoro. Vabbè, queste però sono condizioni personali. Sociali sono avete ragione. Precarietà su salute e felicità, sapevatelo? E se non lo sapete? Weirdatelo. No. Io approfitterei per questa cosa della prossima musica, trasmissione per invitare tutte e tutti a dare i loro contributi. Lo potete fare via mail, sul sito, sui social network dove ci trovate, o anche a noi tre personalmente se ci conoscete. Se non ci conoscete, conosciateci. E chiunque voglia intervenire per la prossima puntata, casomai la pensiamo un po' carina, tutti insieme, tutte insieme. E ciao. E con questa sigla finale di questa ennesima 14ª puntata di Salute e Felicità, che vi diamo un grosso saluto. Loro sono uno twist e questo brano si chiama This Room, non a caso. The No Twist, This Room. Salute e Felicità è una rubrica tendenzialmente queer che va in onda da un po' di tempo su transizionedifase.org la domenica dalle 21 alle 23:30 oramai, e anche 37:38. Baciotto a Null Pointer, baciotto alla prof, baciotto a Mimì, Diana e Giulia e tutti quelli che ci hanno ascoltato stasera. Una buonanotte a tutti e tutte, e come si dice ai bimbi, sogni belli. E ci vediamo, ci sentiamo domenica prossima. E se non ci vediamo, sempre giovedì e venerdì, giovedì alla giovedì Sapienza. E venerdì ci vediamo e ci sentiamo domenica prossima. Un bacio. Ciao, bacetti. Ciao. quanta scambia.